Sì, a dire il vero era abbassato agli occhi di, diciamo, un estremista del calibro di Romano Prodi tanto tempo fa il fatto che c'era un problema di trasporti su Fico. E ricordo molto bene che il sindaco fece spallucce dicendo: ah, non ci avevamo pensato. E adesso, diciamo, il rischio è che ci sia un problema, e cioè che a Fico le persone ci vadano in macchina se decideranno di andarci. È difficile, come dire, in questo modo incentivare il trasporto pubblico. Ma francamente sì, se poteva avere un senso, diciamo, sfruttare questa questione Fico, poteva essere, diciamo, l'ennesima occasione mancata per investire sul sistema ferroviario metropolitano, perché a Fico le rotaie arrivano e invece si è parlato prima del tram. Insomma, io non ho capito, diciamo, ancora una volta questa città che idea di trasporto pubblico abbia. Quello che ho capito è che a Fico ci si andrà in macchina e che la città ringrazia perché all'ombra del passante nord continuerà a muoversi con i tubi di scappamento. E devo dire, ogni tanto mi domando se sia giusto e opportuno un investimento pubblico, come che sia, anche se sbagliato, anche se grossolano, rispetto a un parco agroalimentare che resta comunque un'impresa, non un museo. Io vorrei capire che cosa ci mettono gli imprenditori che sono attorno a Fico, che cosa ci mette la fondazione, che ci mette Farinetti. Ecco, questi sono dubbi che restano aperti. Tu ricordavi che una delle ipotesi era quella del tram, si è parlato per un breve periodo anche del People Mover, di farlo arrivare fino a lì. È tramontata definitivamente questa ipotesi? Ma comunque mi pare che sia tramontata, però, diciamo, sul People Mover il sole non tramonta mai, quindi, diciamo, lì staremo a vedere. Devo dire che a me parrebbe paradossale e persino grottesco che, rispetto a un terminale dove arrivano i binari del sistema ferroviario metropolitano, uno ne facesse arrivare degli altri, di un tram o degli altri ancora con dei grandi piloni di cemento di un People Mover. Tornando un po' alla questione del modello di città, non solo nei trasporti ma in generale, il fatto anche che una navetta costi 5 euro dà un po' l'idea che almeno questa amministrazione abbia un pubblico di riferimento, che è un pubblico molto benestante, quello delle vetrine, quello che fa shopping, è così? C'è anche questo rischio, c'è anche questo elemento, oppure c'è forse l'idea di una città vetrina che è pensata più che altro per turisti e city user. Io da questo punto di vista qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che mi pare che procedano i processi di gentrificazione e io temo che diventi la città dei turisti e dei bed and breakfast, punto, perché io capisco che diciamo, i flussi turistici sono opportunità di sviluppo, opportunità per il commercio, però io vorrei anche che Bologna conservasse una propria identità fatta anche di studenti, di persone che vengono a studiarci, che si fermano a lavorare, che intrattengono e stringono legami sociali. Vorrei che queste persone popolassero il centro, utilizzassero i trasporti. Però, diciamo, c'è una cosa molto vera in quello che dici. Se io ho ragione, cioè se Fico è pensato non tanto per la borghesia cittadina ma più che altro per city user e turisti, resta il nodo di che cosa torna alla città di Fico, tanto più che sembra si stia autonomizzando come isola conchiusa dove ci sono spazi di ricettività, dove, diciamo, sono cambiate le destinazioni d'uso di alcuni immobili di quell'area, e quindi in qualche modo l'elemento dello sganciamento dalla città, ecco, forse è l'aspetto che mi preoccupa di più.